giorno ricomincia la camminata. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Stato puro, se ripide sicuro, se dico fermate. Gigi D'Agostino. Cammino del Gigi D'Agostino, tutto a posto. Vedi, ma che ha fatto lì questa? Gigi D'Agostino. dai un po' sulle mani che ho comprato pure effetto nuovo. Sulle mani tutti quanti, tutti insieme, forza! Hai visto, all'altra parte fanno tutte cose veloci, invece qui si parla lento, violento, quello vero. Qui si parla lento, violento, quello vero. Il cammino di Gigi D'Agostino. Allora non l'ho sentito, non era male. Massa come fomento, ciao. Un po' sta musica. Stai a capire, frate. Ecco dai che parti. Beh, ma senti quel tu di prima. Oh, va piano che mia madre si sveglia. Sto. Oh, ciao G, da paura, ho fatto una cosa, la sentita? Signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Ecco qua, va. Voce del Verbo, te saluto e non te vedo.

Ma che è? C'è sta il folclorista, ma che cazzo? Viaggia poco, rimani vicino, gira. Ma com'era chi viaggia poco? Chi viaggerà poco resterà vicino. Chi viaggia poco resterà vicino. È il cammino del Gigi D'Agostino. Capi, frate? Bella Gigio. Cammino del Gigi D'Agostino. Tutto a posto? Sì, sì. Dai, che famo notte? Spit spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Il cammino di Gigi D'Agostino. Tutto a posto. We'll be right back. se tu sei uno che si abitua molto facilmente alle cose e poi dopo dai G ne sei schiavo, ce la puoi fare. Disposizione stabile della mente, stai ascoltando la frequenza sbagliata. Questo cammino è per chi non si vuole abituare a nulla, ma vuole scegliere continuamente di camminare sotto una luce, non apparentemente luminosa, ma meravigliosamente splendente. Passeggiare ovunque, mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Oggi è momentaneamente disconnesso. Questo è il momento promemoria. Ah, è cazzino. Dai, G. Ce la puoi fare. Dai, G. Ce la puoi fare. Dai, G. Ce la puoi fare. C'era una volta un bravo DJ che di palle ne aveva sei. Gigi D'Agostino, musica che le unisce. Momentaneamente disconnesso, il ragazzo un po' depresso. Questo è il cammino di un bravo bambino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Diversa console, forza, tutti col folclorista, dai! Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo. Gigi D'Agostino. Da un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forte. Dai, che famo notte. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino, che sono io, ma il cammino è nostro, è mio e vostro. Perché come vi ho già detto più volte, ma non mi stancherò mai di dirlo, una gamba è la mia e l'altra è la vostra. E grazie a questo magico incontro che innesca questo perfetto meccanismo naturale, noi possiamo camminare. Che cosa ho detto? Questa me la segno. Ma ciao proprio. Voce del Verbo te saluto. Mi è venuto il momento coccolone. Avviciniamoci tutti, dai. Abbracciamoci forte. Ogni giorno ci gira intorno. M2O. Frequenza, benevolenza. Chi stu cammino? Di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Signore e signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Ciao, sono il tuo sfasciaminchia zen. Se mi vuoi scrivere, acchiappa la penna. 6 4 6 7 6 6 2. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Thank you. baby. It's time for hell to be raised if I kick some lyrics on a beat her baby. It's time for hell to be raised if I kick some lyrics on a beat her baby. Time baby, if I keep kicks, raise, deep, lyrics on me, baby. Time baby, to be kicks, raise, deep, lyrics on me, baby. Voce del verbo te saluto e non te vedo. Stai a capire, frate? Strano, il cammino di Gigi D'Agostino. Allora l'ho sentito, non era male. Stop. E mo davvero. Appiccia un po' sta musica. Ecco dai che parti, vai, andiamo, ammassa come fomento, da u. Dai un po' sulle mani che ho comprato un effetto nuovo, sulle mani tutti quanti, tutti insieme, forza. Hai visto all'altra parte fanno tutte cose veloci, invece qui si fa lento, violento, quello vero. Stop. Oh, ciao G, da paura, ho fatto una cosa, la sentita? Mi si sveglia.